giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Manifestazione della CGIL a Muggia per i lavoratori della Tirso. A pochi metri dal corteo un'anziana ha avuto un malore mentre nuotava in un tratto di spiaggia libera. Soccorsa e portata a riva dai poliziotti, le sue condizioni sono gravissime. L'omicidio di Gemona, attesa in giornata la decisione del Tribunale dei minorenni sulle misure da intraprendere per l'affido della figlioletta di Meilin. In arrivo un fine settimana bollente, domenica le temperature arriveranno fino a 38 gradi in pianura e il caldo non darà tregua neanche nei primi giorni della prossima settimana. Giornate da bollino rosso e nero sulle nostre autostrade per il secondo esodo d'agosto, oggi traffico intenso in direzione Trieste, domani il clou. Il bagarinaggio dietro Prezzi alle Stelle per camere d'albergo e alloggi ancora disponibili a Udine per la sola notte della Supercoppa UEFA mercoledì 13 agosto allo Stadio Friuli. La degenza e l'unità di terapia intensiva cardiologica rimarranno a Gorizia e a Monfalcone, l'accordo raggiunto dopo un vertice tra il Comune e la Regione. Fine vita, Friuli Venezia Giulia al terzo posto in Italia per richieste di informazione sui diritti. Secondo i dati del numero bianco dell'Associazione Luca Coscioni, 35 contatti ogni 100.000 abitanti negli ultimi 12 mesi. Imprese giovanili in Friuli Venezia Giulia, ancora poche ma in crescita, un dato in controtendenza rispetto alle altre regioni. Un'impresa su quattro è straniera o femminile. I dati elaborati dal Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste assegna la medaglia di Iraq a quattro fisici teorici che hanno ridefinito il concetto di gravità per comprendere meglio la struttura profonda dello spazio-tempo. L'Alpe Adria Puppet Festival guarda lontano. L'affidamento quinquennale da parte del Comune di Grado consente di ideare progetti pluriennali. Intanto questa mattina è stata presentata la 34esima edizione. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Risvolto drammatico a Muggia durante il corteo organizzato dalla CGIL per la Tirso, alla quale ha aderito un centinaio di persone. Personale del reparto mobile in testa al corteo ha notato il corpo di una donna riverso in mare nello specchio d'acqua di fronte all'hotel Lido. Gli agenti si sono tuffati e hanno portato a riva l'anziana colpita da malore praticando le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, nel frattempo allertata. Le condizioni della donna, 83enne, sono gravissime. Poche le speranze per la Tirso di Muggia e dopo lo spiraglio aperto e richiuso da Roncadin, il futuro dei lavoratori dello stabilimento tessile è seriamente a rischio. Stabilimento chiuso da un anno, il 4 agosto del 2024 i dipendenti andarono in ferie e da allora non sono mai più rientrati in fabbrica. Oggi a Muggia un corteo, un centinaio i partecipanti, solo bandiere della CGIL, in testa il segretario cittadino Marega. Polemiche per questa iniziativa che sostengono tutte le altre sigle, dalla CISL alla UIL all'UGL, rompe il fronte sindacale ed ha una connotazione politica. In piazza a Muggia anche il sindaco Paolo Polidori della Lega, che pur non condividendo una iniziativa staccata dal tavolo di coordinamento regionale, ha voluto esprimere solidarietà ai lavoratori e per il 20 agosto è convocato un consiglio comunale straordinario proprio su questo argomento. Il corteo stava transitando, e questa è una parentesi di cronaca, stava transitando sul lungomare di Muggia quando all'altezza dell'hotel Lido cinque agenti in servizio d'ordine appartenenti al reparto Celere di Padova si sono gettati in mare per raggiungere a nuoto una donna che non dava segni di vita. 83 anni, triestina, aveva già perso conoscenza. Trascinata a riva, i poliziotti, alternandosi, hanno praticato un lungo e faticoso massaggio cardiaco. Della donna poi si sono occupati i sanitari del 118 giunti con l'auto medica e con l'ambulanza. È stata portata in ospedale in gravi condizioni. Il corteo successivamente è giunto nella piazza di Muggia, dove si è raccolto dinanzi al municipio. Un altro pezzo di storia dell'industria triestina e di Muggia sta per andarsene, ha detto Marega al microfono. Dopo un anno non c'è ancora alcuna risposta. Muggia, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. L'omicidio di Gemona, attesa in giornata la decisione del Tribunale dei minorenni di Trieste sulle misure da intraprendere per l'affido della figlioletta di Meilin. Dalla Colombia la famiglia si è dichiarata disponibile ad accogliere la bambina. In studio con noi Alessandra Zigaina. Sì, buongiorno. Come hai detto, Lara, entro oggi il Tribunale dei minorenni deciderà se convalidare o meno le decisioni finora prese per la figlia di Alessandro Veniere e di Meilin, che ora è rinchiusa a Venezia nell'istituto a custodia attenuata per madri. La piccola si trova in una casa famiglia ed è probabile che lì rimanga ancora per diverso tempo. Oggi, infatti, non ci sarà l'atteso via libera all'affidamento della bimba ai nonni colombiani, come da loro stessi richiesto e come vorrebbe la mamma. Oggi, semmai, lo stesso magistrato potrebbe dare il via agli accertamenti necessari a valutare se ci siano o meno dei parenti in grado di farsene carico. In Colombia i nonni hanno già avviato le procedure per chiedere l'affidamento ed è probabile che nei prossimi giorni le autorità italiane e quelle colombiane si confrontino sulla questione, ma i tempi certamente non sono brevissimi. In via del tutto teorica, la bambina potrebbe stare con la madre nella struttura in cui si trova a Venezia, ma la donna, fa sapere l'avvocato Federica Tosel che la difende, non si trova nelle condizioni di potersi prendere cura della piccola. Intanto a Puerto Colombia, nel nord del paese, una cittadina di circa 50.000 abitanti, chi l'ha conosciuta non riesce a credere che Meilin possa aver avuto un ruolo in un omicidio così efferato. La donna, di professione psicologa, aveva lavorato tra il 2020 e il 2021 nell'ufficio di salute pubblica della cittadina ed era piuttosto conosciuta e stimata. I vicini di casa dei genitori hanno avviato una raccolta di fondi per permettere loro di venire in Italia, ma i fondi dovrebbero essere sufficienti anche per restare nel nostro paese il tempo necessario ad attendere le decisioni del Tribunale dei minorenni e poi eventualmente portare via la piccola. Grazie ad Alessandra Zigaina, proseguiamo con il nostro giornale radio, fine settimana di grande esodo estivo che si apre con la notizia della sospensione del cantiere di riqualificazione dello spartitraffico centrale nel tratto tra Redipuglia e l'Isert della A4. Una decisione già preannunciata da Autostrade Alto Adriatico che consentirà ai veicoli in transito di continuare a circolare sulle due corsie di marcia ma a larghezza normale, non da cantiere e con la presenza della corsia di emergenza. I lavori verranno ripresi tra circa un mese. Per domani è previsto un volume di traffico di circa 190.000 mezzi con bollino nero sulla A4 in direzione Trieste sia al mattino che al pomeriggio e con probabili rallentamenti nel tratto a due corsie tra San Donà di Piave e Portogruaro, agli svincoli in direzione mare e un'uscita all'Isert. In particolare è previsto il transito complessivamente di circa 45.000 veicoli all'Isert, Redipuglia e Villesse. Domenica giornata da bollino rosso sempre in A4. Nel frattempo il primo fine settimana di agosto è andato in archivio nonostante il maltempo, con traffico da record più 3% rispetto al sabato omologo di un anno fa. Si conferma dunque quella che è un'estate da record, visto che a giugno si è avuto un più 8% rispetto a giugno di un anno fa e a luglio più 4%. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16 alle 22 di oggi, dalle 8 alle 22 di domani e dalle 7 alle 22 di domenica. Aggiornamenti in tempo reale sul traffico sui siti www.infoviaggiando.it, www.autostradealtoadriatico.it, sull'app Infoviaggiando, sui canali social WhatsApp e Telegram di Autostrade Alto Adriatico e al numero verde gratuito 800-996-099. Dietro ai prezzi alle stelle per camere d'albergo e alloggi ancora disponibili a Udine per la sola notte della Supercoppa UEFA, che da settimane stanno circolando sul web, c'è anche la piaga del bagarinaggio. Privati che rivendono a prezzi anche triplicati pacchetti di camere acquistate sulle più note agenzie di prenotazione online. Dalle associazioni di categoria l'invito a prestare attenzione e a denunciare. Il caso è emerso tra gli albergatori associati a Udine Chiavi in Mano, destinatari in questi giorni di una mail con l'offerta a prezzi stellari di camere d'albergo ancora disponibili in una struttura di Udine per la notte della Supercoppa UEFA in caso di overbooking. Dalle verifiche dirette della vicepresidente dell'associazione Giuliana Ganzini, il mittente è risultato essere un bagarino, un privato che rivendeva a costi più che raddoppiati pacchetti di camere che aveva acquistato sulle note agenzie di prenotazione online. L'illecito è stato prontamente segnalato alle autorità competenti ed ha alzato livello di attenzione nella categoria, che sta facendo rete per sensibilizzare sul fenomeno e cercare di stopparlo sul nascere. Una situazione fuori controllo, già emersa in occasione di altri recenti grandi eventi a Trieste e 2 anni fa con la dunata degli alpini a Udine, rileva Ganzini. Il consiglio alla clientela è di fare sempre le necessarie e opportune verifiche sul titolare del servizio per non correre il rischio di ritrovarsi non garantiti, un rischio sul piano della sicurezza anche per gli stessi operatori delle strutture ricettive, rimarca ancora Ganzini. Conferma e condanna intanto il fenomeno anche il referente di Federalberghi Udine, Edoardo Marini, che punta il dito anche contro quegli operatori alberghieri che sempre in occasione della Supercoppa UEFA stanno applicando tariffe decuplicate rispetto al normale. Ciò nonostante i prezzi calmierati concordati tra Federalberghi, Regione e UEFA tra le condizioni che hanno consentito a Udine di aggiudicarsi l'evento sportivo, ricorda Marini, che parla di danno d'immagine per l'intera categoria, un'immagine eccellente di una categoria che si è sempre dimostrata seria e professionale e che il comportamento di pochi rischia di sporcare, sottolinea anche l'assessore regionale al turismo Sergio Emilio Bini, che sui fenomeni illeciti come il bagarinaggio esorta gli operatori a segnalare e denunciare sempre. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Un quadro in lieve crescita per le imprese giovanili in Friuli Venezia Giulia, che mostrano un andamento migliore rispetto al calo registrato a livello nazionale nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e risalgono fino a circa la metà della classifica fra le regioni, dove fino a pochi anni fa il Friuli Venezia Giulia era sempre all'ultimo o penultimo posto. I dati sono stati elaborati dal Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine e presentano un'analisi dettagliata del fenomeno nel territorio regionale con confronti con il resto d'Italia. Le imprese giovanili in Friuli Venezia Giulia sono 6.751 al 31 marzo 2025 e rappresentano il 7% del totale delle 96.752 imprese regionali. Questo dato è al di sotto della media nazionale, che si attesta al 7,5%. A differenza del trend nazionale, però, dove le imprese giovanili al netto delle cancellazioni d'ufficio sono calate del 2,8% rispetto al 2024, in Friuli Venezia Giulia si è registrato un lieve aumento dello 0,3%. L'incidenza delle imprese under 35 è superiore alla media regionale a Trieste e Gorizia, mentre inferiore a Udine. Il dato di Pordenone è in linea con la media regionale del 7%. La maggior parte delle imprese giovanili si concentra nella provincia di Udine, che ospita il 44% delle 6.700 aziende. Le imprese giovanili tendono ad essere più spesso imprese individuali, un valore nettamente superiore a quello registrato per le imprese non giovanili. Inoltre, più di un'impresa su 4 a guida under 35 e straniera o femminile. Ora uno sguardo al tempo, cielo sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 25 gradi con mare quasi calmo e temperatura di 23 gradi, a Pordenone 26 gradi e mezzo, a Gorizia 27 gradi e mezzo, a Udine 28 e mezzo, a Piancavallo 22 gradi e mezzo, a Sappada e Tarvisio 23 gradi, a Forni di Sopra 24, a Tolmezzo 25 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 19 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 20 e mezzo, a Grado 20 gradi e mezzo con temperatura del mare 24 gradi, a Lignano 28 gradi e temperatura del mare 25. E nel fine settimana ritorna il grande caldo, il picco domenica con temperature fino a 38 gradi in pianura. Le previsioni dell'Osmer con Federico Bonaldo. Buongiorno a tutti, in questo weekend tornerà il caldo dopo ormai un mese che le temperature erano rimaste sempre gradevoli. Già da domani le temperature aumenteranno fino a 34-35 gradi sulla pianura e anche oltre 30 gradi sulla costa, anche se sarà mitigato da venti di brezza. Per quanto riguarda il cielo, sarà in prevalenza sereno su tutta la regione, con al più della locale nuvolosità pomeridiana in montagna. Domenica la situazione non cambierà per quanto riguarda il tempo, sarà ancora stabile, però le temperature aumenteranno ancora, con le massime che in pianura saranno comprese tra 35 e 38 gradi, ma anche sulla costa raggiungeranno i 35 gradi a causa del borino che soffierà particolare tra Trieste e Monfalcone. E poi continueranno anche nei giorni successivi? Sì, il picco di questa onda di caldo sarà domenica, ma anche poi l'inizio della prossima settimana comunque sarà caldo, le temperature caleranno di qualche grado, ma in un contesto comunque di tempo stabile, con cielo sempre prevalenza sereno, sia per lunedì che per martedì. temperature che appunto comunque resteranno elevate, magari sui 33-34 gradi in pianura, ma anche sulla costa, continuando a soffiare sempre sia lunedì che martedì borino, bora moderata, resteranno alte anche sulla costa oltre i 30 gradi. Sono stati tra i primi a usare i buchi neri come banco di prova per teorie innovative sulla relatività generale, la gravità quantistica e la teoria delle stringhe. Tre approcci diversi, un obiettivo comune: comprendere la gravità e la struttura profonda dello spazio-tempo. Con le loro ricerche hanno trasformato oggetti a lungo considerati astratti e inaccessibili in alcuni degli strumenti più potenti per sondare i segreti dell'universo. In riconoscimento di questi contributi, il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, ICTP, assegna la medaglia Dirac 2025 a quattro fisici teorici che hanno ridefinito la nostra comprensione della gravità. Si tratta di Gary Gibbons, Università di Cambridge nel Regno Unito, Gary Horowitz, Università della California, Santa Barbara, Stati Uniti, Roy Kerr, Università di Canterbury nella Nuova Zelanda e Robert Wald, Università di Chicago negli Stati Uniti. Le ricerche dei premiati affrontano un ampio spettro di argomenti e sono comunate dal loro interesse per i buchi neri. Nonostante siano stati a lungo considerati solo una strana ipotesi teorica, oggi sappiamo che questi oggetti, caratterizzati da una forza gravitazionale così intensa che nemmeno la luce riesce a sfuggirvi, popolano numeroso l'universo. I buchi neri sono al contempo un esempio di come esplorazioni puramente teoriche possano talvolta portare intuizioni straordinarie sul mondo fisico, anche in assenza di una guida significativa da parte dell'osservazione diretta. I contributi matematici dei vincitori della medaglia Dirac di quest'anno alla relatività generale sono alla base di numerose osservazioni in astrofisica, fisica dei buchi neri e delle onde gravitazionali, e allo stesso tempo hanno fornito le basi per ulteriori esplorazioni degli aspetti quantistici dei buchi neri. Fine vita, il Friuli Venezia Giulia è al terzo posto in Italia per le richieste di informazioni sui diritti del fine vita. Secondo i dati del numero bianco dell'Associazione Luca Coscioni, 35 contatti ogni 100.000 abitanti negli ultimi mesi. Il servizio che fornisce informazioni e orientamento sul fine vita ha ricevuto oltre 16.000 richieste, con un incremento del 14% rispetto all'anno precedente. Il servizio è attivo tutti i giorni e affronta temi come eutanasia e suicidio medicalmente assistito, testamento biologico, interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda. Le richieste hanno riguardato soprattutto eutanasia e suicidio medicalmente assistito, circa 5 al giorno, ma anche interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda, più di una al giorno. In oltre 580 persone, 51% donne e 49% uomini, hanno ricevuto informazioni pratiche per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita in Italia o in Svizzera. Presentate poco fa le iniziative organizzate con la Regione per la Giornata Mondiale dei Sordi, in programma a settembre. Sentiamo Carlo Grilli, consigliere regionale ed ex assessore ai servizi sociali del Comune di Trieste. È un contributo sicuramente finanziario, che copre con 25.000 euro una parte, diciamo, delle spese di questa manifestazione. Per il Friuli Venezia Giulia è un grandissimo orgoglio avere la giornata mondiale delle persone sorde all'interno della nostra regione. Si fa un punto su quelli che sono gli arrivi, diciamo, culturali nel nostro territorio, ma anche quelle che saranno poi le proiezioni future. Siamo in un cammino soprattutto culturale, che vede impegnati i nostri operatori nei confronti dei bambini nelle scuole, ma poi anche nell'inserimento lavorativo, in un percorso di autonomia completa. Le persone sorde hanno una grande capacità di inserirsi all'interno del tessuto delle attività di volontariato all'interno del nostro territorio, e quindi io credo che le istituzioni abbiano il dovere di assicurare loro un appoggio completo. Non si riesce a fare tutto da soli, non solo le istituzioni, non solo le attività di volontariato, ma io credo che una sinergia importante tra queste due realtà possa portare beneficio soprattutto nei confronti di una dignità delle persone che deve essere riconosciuta. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia sono circa 100.000 i malati di diabete, ci sono circa 30.000 persone che sono affette dalla patologia ma non sanno di averla, considerato che spesso è asintomatica. Per questo motivo è urgente investire in programmi di prevenzione e di cura, nei quali la promozione di sani stili di vita, di cui l'attività sportiva è parte integrante, siano al primo posto. È questo il filo rosso che accompagnerà la quarta edizione di Diabete a Ruota Libera 2025, una tre giorni dal 5 al 7 settembre, di pedalata non agonistica ideata e organizzata dal Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici, in collaborazione con i professionisti della Rete Diabetologica Regionale. Una corretta alimentazione e un'adeguata attività fisica rappresentano due strumenti fondamentali per prevenire l'insorgenza del diabete e per migliorare la gestione della malattia in chi ne è già affetto. Seguire una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e povera di zuccheri semplici, grassi saturi e sale aiuta a mantenere un peso corporeo adeguato, a controllare i livelli di glicemia e a ridurre i fattori di rischio metabolici, precisa Silvana Kum, dietista del Centro Diabetologico di Asugi di Trieste. L'esercizio fisico invece migliora la sensibilità all'insulina, aiuta a mantenere un peso salutare e migliora la funzionalità cardiovascolare. Anche attività moderate, come camminare almeno 30 minuti al giorno, possono avere un impatto significativo sulla prevenzione del diabete. Saranno mantenute all'ospedale di Gorizia la degenza del reparto di cardiologia e l'unità di terapia intensiva cardiologica. Sembra scongiurato dunque il trasferimento all'ospedale di Monfalcone, che aveva suscitato nelle settimane scorse una levata di scudi da parte di alcune associazioni del territorio. Sembra avere raggiunto l'effetto sperato la mobilitazione delle associazioni isontine, tra cui il Comitato per la Salute Pubblica di Gorizia. No alla chiusura della degenza del reparto di cardiologia e dell'UTIC, l'unità di terapia intensiva cardiologica del San Giovanni di Dio, come inizialmente ipotizzato dalla Regione, che aveva previsto il mantenimento di queste attività soltanto al San Polo di Monfalcone. Provvedimento contro cui il Comitato e la politica locale si erano opposti con forza. Ora la Regione fa dietro fronte. L'assessore Riccardo Riccardi e il presidente Massimiliano Federiga hanno compreso i timori della popolazione, ha fatto sapere il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, annunciando con un comunicato il mantenimento della degenza cardiologica nel nosocomio di Via Fatebene Fratelli, nel capoluogo isontino. La decisione è arrivata dopo un faccia a faccia tra il primo cittadino, l'assessore al welfare del comune di Gorizia, Silvana Romano, e gli stessi Federiga e Riccardi. Più sibilline invece le parole sul mantenimento della terapia intensiva cardiologica. Per ora resta al San Giovanni di Dio, ma solo fino a quando le condizioni lo consentiranno. Condizioni legate più che al budget, soprattutto alla possibilità di reperimento di un numero adeguato di medici e operatori sanitari per assicurare la prosecuzione dell'attività dell'UTIC goriziana, che oggi conta 4 posti letto ampiamente sottoutilizzati. Ma sulla cardiologia isontina, tanto a Gorizia quanto a Monfalcone, pende la spada di Damocle del decreto ministeriale 70 del 2015 in materia di assistenza ospedaliera, che impone una razionalizzazione dei servizi per i territori fino a 150.000 abitanti. E la provincia di Gorizia tutta insieme non arriva a 139.000. Chiusure scongiurate, insomma, ma solo per ora. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ritorniamo sul tema delle provvigioni richieste da parte di alcune agenzie immobiliari anche nel caso di compravendite che non vanno a buon fine. Provvigioni che sono effettivamente previste solo nel caso in cui le parti abbiano già sottoscritto almeno un contratto di compravendita preliminare. Da Bruno Bari, presidente regionale della FIMA, alla Federazione Italiana dei Mediatori e Agenti, l'invito che arriva è a segnalare eventuali irregolarità, prima di tutto, alle organizzazioni di settore. Le Camere di Commercio sono i primi organi preposti, diciamo, al controllo che un professionista, un agente immobiliare, sia iscritto nei registri delle imprese. Per cui noi invitiamo sempre i consumatori, i cittadini, la prima cosa a rivolgersi a noi in Confcommercio o in Camera di Commercio. E in secondo luogo, in caso, insomma, di situazioni un attimino più gravi, ecco, tra virgolette, esortiamo anche noi a rivolgersi alle forze dell'ordine. La questione delle provvigioni sono regolate per legge oppure come vanno calcolate? Allora, la questione delle provvigioni, su cui insomma si dibatte spesso, è regolata dagli usi e consuetudini. Vale a dire, ogni Camera di Commercio ha questa raccolta di usi e consuetudini. L'ultimo aggiornamento che abbiamo per la Camera di Commercio di Pordenone risale al 2005 e riportava il 3%. Potrebbe essere anche oggetto di contrattazione, ma di certo non al ribasso, perché parliamo di usi e consuetudini che risalgono a 20 anni fa. È comunque corretto chiedere una provvigione anche se l'immobile non viene venduto? Il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui il mediatore mette in contatto le parti e redigono anche un preliminare. Se poi per un motivo X il preliminare dovesse saltare, vuoi per una o per l'altra parte, il diritto alla provvigione comunque si conserva. C'è poi il tema delle visite a pagamento, cioè il mediatore che chiede un corrispettivo anche solo per farti visitare l'immobile, è corretto oppure no? Questo è grave. Allora io nelle riunioni che facciamo in tutta Italia sento di colleghi, ma di grosse città tipo Bologna, Firenze, ma Roma, che per esempio per far visitare un immobile che è a 150 chilometri, che chiedono cifre dai 100-150 euro. Qui a Pordenone, dove diciamo le località sono abbastanza a portata di mano, insomma, mi sembra una pratica un attimino esosa. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Al via la 20ª edizione del progetto Parole Musica per Domani, quest'anno sottotitolato L'Uomo e l'Ambiente, curato e promosso dal coro Le Colonie di Castions di Strada. La regia affidata a Giuliano Bonanni, che curerà personalmente le letture insieme a Chiara Donada. Il progetto è poi arricchito dal quartetto d'archi Meti e dai video realizzati da Mike Tessari. La direzione artistica è affidata a Giuseppe Tirelli. Appuntamento nella chiesa della Trinità di Mortegliano alle 20:45. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Caterina Cabrelli e Bruno Montevecchi. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione. Un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.